in primo piano. Buongiorno, sarà forse un segno dei tempi, ma le parole più citate questa mattina sulle prime pagine dei giornali sono razza e razzismo. E sono la sintesi, diciamo, di due notizie rilevantissime di questi giorni. Una è la conferenza dell'ONU sul razzismo che è in corso a Ginevra tra mille polemiche, e l'altro è un retaggio dell'incidente di sabato sera alla partita di calcio Juventus-Inter a Torino, con i cori razzisti contro il giocatore dell'Inter Balotelli. Diciamo che questi due temi sono concentrati sulle prime pagine dei giornali con articoli e commenti di diversa natura. La Stampa, ad esempio, apre il giornale con scontro all'ONU su Israele, Ahmadinejad è razzista e l'UE abbandona la sala della conferenza. Subito sotto il titolo di Israele c'è una foto di Balotelli, il giocatore dell'Inter, cori anti-Balotelli, Juve punita, e poi però c'è subito un commento difensivo, ma Torino è un'altra cosa. La Repubblica apre con Iran-Europa, scontro su Israele, Ahmadinejad attacca, i delegati europei lasciano il vertice, il Vaticano no. Sotto, anche qui la stessa formula, cori e insulti a Balotelli, punita la Juve. Il Corriere della Sera, Ahmadinejad aggressione a Israele, l'Europa protesta e lascia l'aula, è il titolo principale. Sotto, nel taglio basso del giornale, Juve punita per gli insulti razzisti, una partita senza pubblico dopo i cori contro Balotelli, l'ira dei tifosi, ma anche qui c'è, diciamo, una parte difensiva della Juventus, perché c'è un'intervista all'Apo El Khan, slogan indegni, ma lui, cioè Balotelli, è scorretto. La Gazzetta dello Sport, naturalmente, titola chiuso per razzismo, decisione mai presa prima in Serie A per i cori allo stadio di Torino. Il Riformista, sempre la stessa parola, il razzista è lui, c'è una foto del presidente iraniano Ahmadinejad, l'Europa condanna l'attacco di Israele, i paesi UE che avevano deciso di partecipare lasciano l'aula in segno di protesta, il Vaticano difende la sua scelta di andare, il testo è stato corretto. Un titolo provocatorio è quello sul Libero, dice immigrati e non solo, siamo razzisti. Andiamo unici in Europa a salvare i clandestini in mezzo al mare, accogliamo centinaia di migliaia di profughi l'anno, concediamo i sagrati delle nostre chiese alle preghiere islamiche, togliamo i crocifissi dai luoghi pubblici per non offendere nessuno, strapaghiamo e viziamo decine di calciatori di calcio di colore. Se questo vuol dire essere intolleranti, ebbene sì, lo siamo, testimonia Libero. Sul Foglio ancora un titolo dedicato al razzismo del leader iraniano, con Darban 2 s'aggiorna la mappa diplomatica sull'odio contro Israele, l'Unità titola a tutta pagina con una foto di un campo di calcio, che razza di gioco, il calcio sopporta il razzismo, solo multe e una partita a porte chiuse dopo gli insulti e i cori razzisti degli ultra della Juve a Balotelli. Da Ahmadinejad, dell'altro titolo, insulti a Israele, la UE lascia il summit. Sulla notizia, diciamo, principale della giornata, del seguito di questa conferenza dell'ONU a Ginevra, Gianenrico Rusconi fa un commento sulla Stampa, il cui titolo è Il ring di Ginevra, e scrive: è in gioco l'etica, è sbagliato disertare, aveva affermato il capo della delegazione vaticana alla conferenza dell'ONU sul razzismo, disapprovando le nazioni assenti. È stato smentito dalle parole, peraltro prevedibili, del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che della questione etica del razzismo ha fatto un po' un uso eminentemente politico e unilaterale. Lo stesso segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, è dovuto intervenire per censurarlo. Il fatto è che il razzismo è diventato l'indicatore più potente e comodo per stigmatizzare ciò che si considera il male, il nemico. Anzi, il proprio nemico, ma in questo modo la definizione di che cosa sia il razzismo, la sua imputazione, la lotta efficace contro di esso, sono diventati strumenti politici diretti. Un classico esempio di politicizzazione di principi che dovrebbero essere ispirati a una politica d'intesa e di azione comune. È in questa situazione che si è cacciata la conferenza di Ginevra, dopo la cattiva prova della volta precedente a Durban nel 2001. Non è più il luogo del dibattito etico, ma il posto dove si esibiscono i muscoli della nuova ideologia anti-occidentale, prendendo come pretesto il caso di Israele. Questo è Gianenrico Rusconi sulla Stampa. Sulla Repubblica c'è un altro commento dedicato invece la vicenda di Ginevra, ma mette in relazione, diciamo, la posizione di Teheran e soprattutto le aperture di Obama, che in questo momento sarebbe nei pasticci per le sue aperture appunto al regime di Teheran. La provocazione di Teheran è il commento di Lucio Caracciolo e scrive: Obama è nei guai, l'uomo cui aveva appena teso la mano per ricucire dopo 30 anni i rapporti USA-Iran, sperando che lo aiutasse a sganciarsi onorevolmente dall'Iraq e dall'Afghanistan, ha festeggiato a suo modo il 120° compleanno di Adolf Hitler. Mahmoud Ahmadinejad ha rubato la scena della conferenza dell'ONU di Ginevra con una tirata contro il governo razzista che i vincitori della Seconda Guerra Mondiale avrebbero imposto alla Palestina occupata. Una provocazione mirata, scrive ancora Caracciolo sulla Repubblica, con cui il presidente della Repubblica Islama intendeva cogliere almeno 3 obiettivi, che adesso vediamo quali sono questi obiettivi secondo Caracciolo. Primo, sfruttare l'effetto Gaza, l'indignazione della piazza islamica non solo per il comportamento delle truppe israeliane durante la recente campagna militare, che ha portato la popolarità dello Stato ebraico nel mondo ai minimi di sempre. Secondo, volgere il summit delle Nazioni Unite in spot gratuito ad uso domestico per la sua rielezione alla presidenza nell'Iran nel voto di giugno. Terzo e ultimo obiettivo, chiarire agli americani e agli europei che nella partita del nucleare iraniano è lui a guidare le danze, giacché sono loro a trovarsi in stato di necessità. Per conseguenza, chiude Caracciolo, sarà lui a dettare il tono e a creare l'atmosfera del negoziato se mai dovesse decollare. Questo, diciamo, sono i due commenti principali oggi sulle pagine dei giornali dedicati al vertice di Ginevra. Naturalmente la parte dedicata al razzismo sui giornali è molto più ampia, perché c'è questo cotè italiano legato al calcio che sta diventando un tema di grandissimo interesse in questi giorni sui giornali, con posizioni assai diverse. C'è chi pensa ad esempio che si tratti solo di delle bambinate di protesta di qualche tifoso poco educato, c'è chi invece parla esplicitamente di campagne razziste che dovrebbero essere sanzionate duramente, e naturalmente le posizioni in questo momento sono assai diverse l'una dall'altra. Sull'Unità c'è un'intervista ad esempio a Marcello Lippi, che è il commissario tecnico della Nazionale, e commenta questo episodio di Torino razzista. Il commendatore al merito della Repubblica Italiana, Lippi, Marcello da Viareggio, non si capacita. Non voglio approfondire aspetti specifici legati a fatti di casa nostra. Dico solo una cosa. Sono assolutamente contrario a qualunque forma di razzismo, pelle, cultura e censo. Balotelli, e il caso Balotelli è solo la punta dell'iceberg, è la domanda. Qualcosa si può e si deve senz'altro fare. È necessario far capire ai bambini che esiste una sola razza, quella umana. Spagna e Inghilterra hanno provveduto con pene certe, con un serio percorso giudiziario. Non so se sia quello il percorso da seguire, ma ripeto, credo la strada sia quella di far capire ai più giovani i basilari concetti di convivenza civile. Poi le pene, le sanzioni, non so. Non mi pare che in Italia ci sia un grandissimo problema. Ogni tanto succede qualcosa, ma in certi luoghi lo sport viene strumentalizzato per fini politici. Ai tempi in cui correva a Genova e a Pistoia, la domanda, l'atmosfera era diversa? C'è stato un cambio antropologico, risponde il commissario della Nazionale, sicuramente, ma in tutto, non solo nel calcio, nella vita, nel cinema, nella cultura, nella comunicazione, nell'educazione e di conseguenza, purtroppo, anche nello sport. Sul razzismo vale la pena di leggere però la provocazione di Libero, che la pensa completamente in modo diverso rispetto agli altri commentatori di oggi sui giornali. C'è un commento di Gianluigi Paragone, il titolo è emblematico, siamo razzisti, e dice: giù la maschera, ci arrendiamo, siamo razzisti, i fatti parlano chiaro. Siamo razzisti perché se c'è una nave in mezzo al mare carica di immigrati in pericolo di vita, il governo di Malta chiude occhi e orecchi mentre il governo italiano, infarcito di gente cattiva, prima smoccola, poi piglia la corda e la tira a riva per prendersi cura di quei disgraziati. Ovviamente a riva è ripartito anche il teatrino delle polemiche gratuite. Nemmeno stavolta Berlusconi e Maroni l'hanno combinata giusta. Siamo razzisti perché non usiamo la marina mercantile per sparare ai barconi di stranieri, perché non cingiamo di filo spinato i confini più perforabili. Perché chiediamo, scrive ancora Paragone sul Libero, all'Europa di decidere una volta per sempre la linea da tenere sugli sbarchi dei clandestini. Non fosse altro per evitare di farsi prendere pure per i fondelli dai maltesi. C'è stato un disguido tra governi, ma guarda. Siamo razzisti, dice Libero, perché abbiamo leggi tra le meno severe di tutti e se si pensa di cambiarle per uniformarci un po' di più ai parametri europei, apriti cielo. Meglio cullarsi col buonismo di maniera, utile paracolpi per evitare di farsi male quando l'immigrazione si presenta con la faccia più violenta. Siamo razzisti perché denunciamo che con l'immigrazione clandestina cresce il numero dei reati, specie di alcuni. Per esempio le rapine e le violenze. Sono diminuiti gli omicidi? Beh, grazie tante se si viene risparmiato il viaggio anticipato al creatore. Ma non è poi così bello incassare solo pugni, sberle o farsi solo violentare. Questo era Gianluigi Paragone sul Libero, il titolo emblematico Siamo razzisti. Un altro tema, diciamo, legato a questa vicenda, invece è tipicamente sportivo, ma anche tipicamente italiano, cioè il tentativo immediato di difendersi di fronte all'accusa infamante di razzismo che non fa bene a nessuno. E così troviamo, ad esempio, che sulla Gazzetta dello Sport ci sono tutti i leader della FIGC, del calcio, che cercano di difendersi da queste accuse infamanti, come il presidente della FIGC Abete, mi scuso con l'opinione pubblica, è una norma da cambiare, e come sul Corriere dello Sport della Sera, dove di fronte a un titolo enorme, chiuso per razzismo, di cui si dà notizia della pena rilevante inflitta alla Juventus, c'è un'intervista invece all'Apol Khan, azionista e appassionato, viene descritto, che così cerca di commentare questa vicenda. Ha lasciato la giacca scozzese bianconera e jeans strappati, perfetti per un sabato sera nel privé dell'Olimpico con la fidanzata bianca e il fratello John a Torino. Oggi l'Apo Edoardo Elkan è vestito da ambasciatore della Triennale di Milano, dalla bolgia del calcio al silenzio ovattato dell'arte moderna. Senza dubbio preferirebbe commentare l'allestimento del Museo del Design, però Juve Inter è ancora incandescente due giorni dopo, l'eco di quei 25.000 insulti razzisti lontana dallo spegnersi e una certa juventinità congenita dell'ambasciatore, quel segno particolare che si è trovato stampato 31 anni fa all'atto di nascita, autorizzano un cambio improvviso di soggetto. L'Apo, dice, è la domanda. Lei, torinese juventino, era all'Olimpico, confessi, che cosa ha pensato alla prima, alla seconda, alla terza, all'ennesima bordata di insulti a Balotelli? Ero dispiaciuto per lui perché un ambiente del genere non porta serenità al match. E per me personalmente, da uomo e da tifoso, perché tutti a questo mondo abbiamo il diritto di essere messi in condizione di competere lealmente. Belle parole, però da quel Far West sono uscite una brutta figura e una brutta partita. Io dico che non ci può essere amore tra Juventus e Inter, risponde Lapo. Parlo da tifoso, non da azionista bianconero. Non è strutturalmente possibile, tutti sappiamo perché. Scontati ancora i postumi del fallo di Giuliano su Ronaldo, è la domanda? La risposta. Tra Juve e Inter ci può essere rispetto, che è doveroso in qualsiasi competizione e in qualsiasi combattimento di business o di sport. Ma tutti sanno perché tra Juve e Inter non può esserci amore. E noi bianconeri lo sappiamo meglio di loro perché siamo andati in B. Ancora l'Apo Elkan commenta. Nel calcio non si prescrive proprio nulla, vero? Se lo vince, e ribadisco se lo vince, dice l'Apo, per me questo sarà il primo scudetto dell'Inter di Moratti. L'ha detto anche Mourinho. Ma Balotelli cosa c'entra? Balotelli c'entra perché lui sul campo non mi è sembrato un professionista, mi è sembrato un giocatore scorretto. Le grottaglie dopo la partita ha parlato chiaro, è giovane, ha 18 anni, e da giovane si è focosi e irruenti, si possono commettere tanti errori, e io ho titolo per dirlo perché ne ho commessi anch'io, ma qualsiasi calciatore potrebbe confermare che Balotelli è scorretto. Altro tema che è emerso ieri sera, anche in televisione, ai TG, probabilmente li avete sentito e visto, è se forse siamo fuori dalla crisi o stiamo uscendo dalla situazione peggiore. La presidente di Confindustria, Marcegaglia, ha detto che probabilmente non siamo fuori dalla crisi, ma il peggio sembra passato e da luglio ci potrebbero essere addirittura dei segnali positivi. Il Sole 24 Ore titola tutta pagina questa mattina col titolo principale di apertura Oracle si aggiudica Sun, c'è una grande operazione di acquisizione nella Silicon Valley dove si crea un nuovo gigante del software. Probabilmente questo è un segno molto importante del dinamismo dell'economia americana, che potrebbe far ben pensare anche a un riflesso positivo per l'economia italiana. Un'analisi, diciamo, a che punto siamo della crisi, c'è invece sul Foglio. Il titolo è questo: il conto dell'apocalisse che non c'è. Il peggio della crisi è passato, ma già si intravedono le eredità pesanti delle politiche interventiste, come l'esplosione del debito pubblico e lo spettro dell'inflazione. Cioè un articolo che si dedica a un'analisi di quanto può succedere quando saremo fuori dalla crisi, e la situazione non è che sia brillante in realtà a vedere quanto c'è scritto. L'apocalisse è rimandata, scrive il Foglio. Se lo certifica il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che un po' di catastrofismo sulla crisi non ha lesinato nel recente passato, deve essere vero. Adesso è il momento di iniziare a interrogarsi sulle conseguenze, inflazione e debito pubblico. Sul Financial Times di ieri, Martin Feldstein, economista di Harvard, già capo economista di Ronald Reagan e oggi consigliere di Barack Obama, ha descritto la nuova minaccia, anzi lo spettro, l'inflazione. L'enorme deficit fiscale americano, ha scritto, è accompagnato da un rapido aumento dell'offerta di moneta e da un'ancor più sinistra crescita delle riserve commerciali delle banche, che potrebbero far salire la moneta circolante. Il problema, esacerbato dalle politiche di quantitative easing e dalla Fed, potrebbe portare ad un'esplosione inflazionistica della moneta e del credito. Che non si tratti di allarmismo isolato lo dimostra anche l'avvertimento lanciato da Lorenzo Bini Smaghi, membro del board della BCE, che ha invitato a non sopravvalutare il rischio della deflazione, di cui si è parlato nei mesi scorsi. La cosa più importante, ha detto, è mantenere i tassi a un certo livello, senza creare troppa liquidità sul mercato ed eccessive aspettative di inflazione. Ciò non significa che la deflazione possa essere archiviata nel breve, come evidenzia Fedele De Novellis del Centro di Ricerche per l'Economia e la Finanza. Nell'immediato, quantomeno, avremo un'inflazione molto bassa, se non negativa. Per quel che riguarda il futuro, il compito delle banche centrali è proprio quello di preoccuparsi perché l'eventuale riversarsi della liquidità sui mercati non dia luogo, prima ancora che all'inflazione, a nuove bolle. Nel medio termine, il problema è quanto Bernanke voglia e sappia tirare le redini della massa monetaria. Non appena usciremo dalla crisi, una certa dose di inflazione è inevitabile, spiega al Foglio Carlo Scarpa, economista dell'Università di Brescia e redattore della Voce.info. Su questo fuocherello, però, rischiamo di gettare benzina monetaria. La combinazione tra i bassi tassi di interesse, l'intervento pubblico a gogo e la condotta allegra delle banche centrali non sarà priva di conseguenze. Questo era il Foglio, che dice che il conto dell'Apocalisse, che non c'è, e quindi c'è una prospettiva, diciamo, positiva per il prossimo futuro. In realtà, questo titolo di prima pagina poi contrasta un po' con una bella inchiesta che il Foglio pubblica a pagina 3, Conciati da far paura, viaggio a nord-est fra le imprese in crisi in cui si lavorano le pelli, dove gli immigrati usa e getta, perdono la casa e c'è aria di banlieue, è un articolo di Cristina Giudici. C'è un po' di politica di cui bisogna occuparsi oggi sui giornali, ad esempio il referendum e le elezioni europee. Il referendum e le elezioni europee sono due temi importanti perché coinvolgono partiti, maggioranza e opposizione in una situazione assai confusa. Sull'unità c'è un commento del sociologo Luigi Manconi che parla di un rischio tremendo dell'astensione dei cittadini italiani che non andrebbero a votare la prossima consultazione elettorale. E dice Manconi, secondo un sondaggio di Eurobarometro, la tendenza all'astensionismo sarà il dato decisivo del voto europeo. Il 50% degli elettori italiani, ma la percentuale potrebbe crescere, non pare intenzionato a recarsi alle urne. E se ciò riguarda anche gli altri paesi europei, è il dato italiano che colpisce maggiormente. Il nostro paese è, tradizionalmente, tra i più fedeli al voto, ma da un quindicennio la tendenza nazionale si va indebolendo. Eppure la nostra era un'anomalia per una volta felice, se è vero come è vero che l'esercizio del diritto di voto costituisce espressione fondamentale della partecipazione democratica. Certo, le istituzioni europee sono e comunque appaiono come le più lontane, ma la medesima disaffezione si manifesta anche a elezioni politiche e persino in quelle più vicine, le amministrative. Va detto allora che la causa è soprattutto politica, scrive Luigi Manconi, e di appena 48 ore fa la provvisoria soluzione dell'odissea della Pinar nelle acque del Mediterraneo. Ma chi aiuta i cittadini a comprendere lo stretto rapporto tra quelle vicende e le istituzioni europee e a intendere come dalla UE possono giungere all'infelice Abruzzo non solo aiuti economici ma anche politiche di sviluppo e direttive capaci di impedire il ripetersi di simili tragedie? Di più, c'è un deficit di mobilitazioni nell'elettorato italiano che interpella il Partito Democratico. Viviamo una fase di spassionatezza, non se ne esce con defaticanti discussioni intorno alla leadership. Se c'è una possibilità di salvezza per la partecipazione politica, per la partecipazione politica a sinistra, essa consiste nel ritrovare un'autonoma identità intorno a valori riconoscibili. Per esempio quelli che si inducono a ritenere che quei due barconi respinti per giorni tra Malta e la Sicilia ci riguardino, sono un problema nostro, italiano ed europeo. L'ultima cosa che vorrei segnalarvi è sul Manifesto in prima pagina e riguarda ancora gli incidenti e la legislazione sul lavoro. Delitto perfetto è un titolo a tutta pagina con un'immagine della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni. Morti sul lavoro, il testo unico del governo mette al sicuro i vertici aziendali e affossa i processi, anche quello Thyssen. Sarebbe una cosiddetta norma salva manager e il commento del Manifesto in prima pagina si intitola Impunità aziendale di Loris Campetti. Se un muratore cade da un'impalcatura o si frattura le gambe o se un operaio muoie bruciato in acerie è per colpa sua, si è distratto. Non ha rispettato le norme di sicurezza. Quante volte ci hanno raccontato questa favoletta i padroni? Ogni volta che c'è un infortunio sul lavoro, ogni volta che un lavoratore perde la vita. Loro hanno le mani pulite, come i democristiani raccontati da Francesco Rosi in Mani sulla città. Se non è colpa del destino cinico baro, è colpa sua. Questo era Competti sul Manifesto. La giornata è finita. Buongiorno a tutti.